Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Com'erano cambiate le cose per me adesso. Quando avevo lasciato il mio paese, era un ragazzetto senza un soldo bucato, un soldato semplice in un misero reggimento mobile. E tornavo che ero un perfetto uomo di mondo, con un patrimonio personale di ben 5.000 guinee. E uno splendido guardaroba e un ricco portagioie che insieme ne valevano altri 2.000. In più, mi ero mescolato a ogni genere di attori nel gran teatro della vita, recitandovi una parte non modesta. Avevo provato la guerra e l'amore, e con il mio ingegno e la mia energia mi ero fatto strada dalla povertà e dall'oscurità all'agiatezza e allo splendore. Mentre guardavo fuori dai finestrini della mia carrozza, che rotolava pesantemente sulle strade squallide e nude tra le miserabili casupole dei contadini, che uscivano vestiti di stracci a guardare sbalorditi la mia splendida carrozza che passava circondata di lacchè, e gridare «Urrà!» e osservare il magnifico straniero nella sua superba vettura dorata, e anche, ciondolante sul retro, il mio gigantesco domestico personale Fritz con i suoi baffi arricciati, il lungo codino e la livrea verde con gli alamari di merletto d'argento, non potevo fare a meno di pensare a me stesso con notevole compiacimento e di ringraziare la mia stella per avermi dotato di tante buone qualità. Senza i miei meriti personali sarei certamente stato un rozzo piccolo possidente irlandese, come quelli che vedevo marciare tronfi su e giù per le miserabili cittadine attraversate dalla carrozza sulla via di Dublino. Forse avrei sposato Nora Brady. E anche se grazie a Dio non l'ho fatto, non ho mai potuto pensare a quella ragazza senza un poco d'affetto. E in questo momento ricordo l'amarezza della sua perdita, addirittura più chiaramente di qualsiasi altro evento della mia vita. Forse sarei stato ormai padre di 10 figli, o fattore di un mio podere, o amministratore di un possidente, o gabelliere, o avvocato. E invece, eccomi qui, uno dei più famosi gentiluomini d'Europa. Ordinai al mio servo di procurarsi una borsa di monete di rame e lanciarle tra la folla mentre cambiavamo i cavalli, e vi garantisco che si levarono tante grida a mia lode e mio onore quante ne poteva raccogliere al suo passaggio Milord Townsend, il Lord Luogotenente in persona. La seconda giornata di viaggio, le strade irlandesi erano molto cattive a quei tempi e la carrozza di un gentiluomo doveva procedere con una lentezza spaventosa, mi portò fino a Carlow, dove presi alloggio nella stessa locanda di 11 anni prima, quando ero fuggito di casa dopo il duello in cui credevo di aver ucciso Quinn. Come ricordo bene ogni particolare di quella scena. Il vecchio locandiere che mi aveva servito non c'era più. La locanda, che allora mi era sembrata tanto confortevole, aveva un'aria miseranda e cadente. Ma il chiaretto era buono come ai vecchi tempi, e io invitai l'oste a dividerne una brocca con me e raccontarmi le novità delle sue parti. Avevo ricevuto da parte di mia madre molte lettere che mi informavano degli affari di famiglia a Bradystown. Mio zio era ormai morto e Mick, il primogenito, l'aveva seguito nella tomba. Le ragazze Brady avevano lasciato il tetto paterno non appena il fratello maggiore era venuto a farla da padrone. Alcune si erano sposate, altre erano andate a stabilirsi con la loro vecchia e odiosa madre in qualche stazione termale o balneare fuori mano. Ulick aveva ereditato il patrimonio, ma si era trovato in mano una proprietà già in bancarotta, e così a Castle Brady ora ci vivevano soltanto Pipistrelli, Goofy e il vecchio guardiacaccia. Mia madre, Mrs. Harry Berry, era andata a vivere a Bray per trovarsi nel gregge di Mr. Yules, il suo predicatore preferito, che aveva una cappella là. E per finire fu il locandiere a dirmi che il figlio di Mrs. Barry era andato in terra straniera, si era arruolato nell'esercito prussiano ed era stato fucilato come disertore. Non mi vergogno di ammettere che dopo cena presi a nolo un cavallino robusto nella stalla del locandiere e al calar della notte me ne tornai indietro di 20 miglia verso la mia vecchia casa. A vederla mi batteva il cuore. Berryville aveva sopra la porta un'insegna con un mortaio e un pestello, ora si chiamava il magazzino di Esculapio e apparteneva a un dottor McShane. Un ragazzo coi capelli rossi stava intonacando quello che era stato il salotto. Il vetro della finestrina di camera mia, un tempo così pulito e lucente, era spaccato in più punti e rattoppato qua e là con degli stracci. I fiori erano scomparsi dalle linde aiuole che la mia buona madre aveva tenuto così in ordine. Nel cimitero c'erano due nomi in più sulla lapide della tomba di famiglia dei Brady. Erano quelli di mio cugino, di cui non mi importava troppo, e di mio zio, che avevo sempre amato. Chiesi al fabbro ferraio, il mio vecchio compagno di giochi, che mi aveva picchiato tante volte ai vecchi tempi, di dare al mio cavallo un po' di foraggio e dello stame. Adesso era un uomo logoro, dall'aria affaticata, con una dozzina di bimbi sporchi e cenciosi che cespicavano in giro per la fucina. E non riconosceva affatto il gentiluomo elegante che gli stava davanti. Non cercai di rinfrescargli la memoria, ma il giorno dopo gli misi in mano 10 guinee, dicendogli di bere alla salute di Redmond l'inglese. Quanto a Castle Brady, i cancelli del parco erano ancora al loro posto, ma nel viale i vecchi alberi erano stati abbattuti. Qua e là spuntava un troncone nero che gettava la sua lunga ombra mentre percorrevo al lume di luna la vecchia strada abbandonata e invasa dall'erba. Qui pascolavano alcune vacche. Il cancello del giardino non c'era più e il giardino stesso era una giungla inestricabile. Sedetti sul vecchio banco di pietra dove mi ero seduto il giorno che Nora mi aveva dato il ben servito, e credo proprio che i miei sentimenti allora fossero forti come erano stati quando ero ragazzo. Mi accorsi che stavo quasi per piangere un'altra volta al pensiero che Nora Brady mi aveva lasciato. Ne sono certo, un uomo non dimentica nulla. Mi è capitato di vedere un fiore, o di sentire una o due parole qualunque, e questo bastava a risvegliare ricordi che erano rimasti addormentati chissà come per decine di anni. Una volta che entrai nella casa di Clergy Street, in cui io sono nato, la usavano come casa da gioco quando visitai Londra per la prima volta, tutto a un tratto mi tornò alla mente il ricordo di quando ero piccolo, anzi, proprio un bimbetto. Ricordai mio padre, vestito di verde e di oro, che mi sollevava per farmi vedere una carrozza dorata fuori della porta, e poi mia madre, con un mantello lungo a fiori e le pezzuole di seta nera sul viso. Un giorno o l'altro, mi chiedo, tutto quello che abbiamo visto e pensato e fatto ritornerà così e passerà in un lampo attraverso la nostra mente. Io preferirei di no. Così almeno mi sembrava mentre sedevo sulla panchina di Castle Brady e ripensavo ai tempi andati. La porta dell'atrio era aperta. Era sempre stato così in quella casa. La luna mandava una luce chiarissima attraverso le finestre vecchie e alte, tracciando griglie spettrali sui pavimenti, e le stelle stavano guardando dentro dalla parte opposta, nello spazio blu scuro della finestra spalancata sopra lo scalone. Di lì si poteva vedere il vecchio orologio della stalla, con le lettere che brillavano ancora. C'erano dei cavallini niente male nelle stalle un tempo. Io rivedevo la faccia onesta di mio zio, lo sentivo parlare ai suoi cani quando venivano a saltare, guaire e abbaiare attorno a lui in un'allegra mattina d'inverno. Là Montavamo a cavallo e le ragazze ci guardavano dalla finestra dell'atrio, dove ora io stavo a guardare quel vecchio edificio triste, così ammuffito e solitario. In un angolo del fabbricato una luce rossa brillava attraverso le fessure di una porta. Ne uscì subito un cane, latrando forte. Un uomo lo seguiva zoppicando con un fucile da caccia in pugno. «Chi è là?» «Phil Purcell! Non mi riconosci?» gridai. «Sono Redmond Barry!» Per un momento credetti che il vecchio mi avrebbe sparato con quel suo fucile, perché lo puntò verso la finestra, ma subito gli gridai di fermarsi. Scesi di sotto e lo abbracciai. «Al diavolo! Non mi va di raccontare il resto. La notte fu lunga per me e Phil, e la passammo a parlare e riparlare di mille vecchie sciocchezze che oggi non interessano più ad anima viva, perché c'è forse un'anima viva a cui importi qualcosa di Barry Lyndon?» Feci avere al vecchio 100 guinee quando arrivai a Dublino e gli assegnai una pensione che gli permise di passare comodamente i suoi ultimi anni. Il povero Phil Purcell si stava divertendo a fare una partita con certe sue carte terribilmente sudice insieme a una vecchia conoscenza. Niente di meno che Tim, che era detto il mio lacchè ai tempi dei tempi. Il lettore forse lo ricorderà vestito delle vecchie livree di mio padre. All'epoca gli pendevano giù da tutte le parti, coprendogli anche i polsi e le ginocchia. Ma Tim, benché ripetesse che si era quasi ucciso per il dolore quando io me n'ero andato, in mia assenza era riuscito a diventare immensamente grasso. Sarebbe quasi entrato nella giacca di Daniel Lambert o in quella del pastore di Castle Brady, a cui Tim faceva da sacrestano. L'avrei assunto al mio servizio, non fosse stato per la sua taglia mostruosa, che lo rendeva del tutto inadatto al posto di cameriere di un gentiluomo d'alta condizione. Così gli elargii una bella mancia e promisi di fare da padrino al suo prossimo figlio, l'11° da quando ero partito. Non c'è paese al mondo dove il compito di moltiplicarsi sia eseguito con tanto successo come nella mia isola natale. Mr. Tim aveva sposato la cameriera delle ragazze, che era stata una mia cara amica in quei primi anni, ma quando l'indomani dovetti andare a salutare la povera Molly, trovai una donnetta trasandata in una capannuccia di terra circondata da uno sciame di bambini. I loro abiti erano laceri, quasi quanto quelli dei figli del mio amico Maniscalco. Da Tim e Phil Purcell, incontrati insieme per puro caso, ebbi le notizie più recenti sulla mia famiglia. Mia madre stava bene. «Diamine, signore!» dice Tim. «Forse siete arrivati in tempo per impedire una nuova giunta alla famiglia!» «Signore!» esclamai in uno slancio di indignazione. «In forma di patrigno, voglio dire, signore!» dice Tim. «La signora sta per accettare le proposte di Mr. Yours, il predicatore!» La povera Nora Brady, proseguì poi, aveva arricchito di molti discendenti l'illustre razza dei Quinn. Mio cugino Ulick, invece, era a Dublino, dove non combinava nulla di buono, dicevano preoccupati i miei informatori. Era riuscito a dilapidare quel poco che restava a sua disposizione delle proprietà che il mio buon vecchio zio si era lasciato dietro. Mi resi conto che avrei avuto non pochi parenti a cui provvedere. E allora, per concludere la serata, Phil, Tim e io ci bevemmo una bottiglia di whisky irlandese. Ne avevo sempre ricordato il sapore per 11 anni buoni. E quando ci separammo, e fu con le più calorose espressioni di amicizia, il sole era già da qualche tempo su in cielo. Io sono estremamente affabile, è sempre stata una mia caratteristica. Non ho falso orgoglio, come ne hanno tanti uomini di sangue illustre come il mio. E in mancanza di compagnia migliore, sono pronto a fare una bevuta e 4 chiacchiere con un contadinello o un soldato, come lo farei con il primo nobile della nazione. Di mattina tornai al villaggio e trovai modo di visitare Berryville con la scusa di certe medicine da comprare. Nel muro C'erano ancora i ganci da cui un tempo pendeva la mia spada dall'elsa d'argento, sul davanzale, dove mia madre teneva sempre il suo libro di devozione. Era appoggiato un vescicante e l'odioso dottor McShane aveva scoperto chi ero. I miei connazionali scoprono tutto e anche molto di più, e ridacchiando sotto i baffi mi chiese come stava il re di Prussia quando l'avevo lasciato e se il mio amico l'imperatore Giuseppe fosse tanto amato quanto lo era stata l'imperatrice Maria Teresa. I campanari mi avrebbero certamente onorato di un concertino, ma di campanaro ce n'era uno solo, Tim, che era troppo grasso per tirare le corde. E così cavalcai via prima che il pastore, il dottor Bolter, successore del vecchio Mr. Texer, che viveva ai miei tempi, facesse in tempo a venire a farmi i complimenti. Ma la canaglia di quel villaggio pezzente si era raccolta in una sudicia armata per darmi il benvenuto e gridarono «Urrà per Master Redmond!» mentre io me ne andavo. I miei servi erano piuttosto in ansia per me quando finalmente tornai a Carlow e il locandiere disse di aver avuto una gran paura che i banditi mi avessero pizzicato. Anche là il mio nome e la mia condizione erano stati divulgati grazie al mio domestico Fritz, che non aveva risparmiato lodi al suo padrone e aveva anche inventato delle magnifiche storie sul mio conto. Era vero, aveva detto, che io ero in confidenza con metà dei sovrani d'Europa, anzi, di molti ero il principale favorito. Del resto, io stesso avevo reso ereditario l'ordine dello Sperone e viaggiavo sotto il nome di Cavalier Berry, ciambellano del duca di Hohenzollern. Per giungere fino a Dublino, mi diedero i migliori cavalli che ci fossero nella stalla, i finimenti più robusti. Così viaggiamo piuttosto bene, senza dover affrontare i banditi con le pistole di cui Fritz e io eravamo provvisti. Quella notte la passammo a Kilcullen e l'indomani feci il mio ingresso a Dublino con 4 cavalli alla carrozza, 5.000 guinee nella borsa e una delle più brillanti reputazioni d'Europa. E 11 anni prima avevo lasciato la città, che ero un ragazzino povero in canna. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.